Euroreportage. Europa dell'autotrasporto. Il mercato non ha regole. Di Andrea Ferro. Studi e statistiche, periodicamente, fotografano quanto sta accadendo nel mondo dell'autotrasporto con l'eloquenza dei numeri, ma al di là dei dati ci vuole davvero poco a capire come siano cambiate le cose. Basta dare un'occhiata alle targhe dei mezzi pesanti che incrociamo quando percorriamo l'autostrada. Quelli immatricolati in Italia sono sempre meno, mentre abbondano i veicoli con i contrassegni dei paesi dell'est: Polonia, Bulgaria, Romania, Slovacchia. Succede in Italia come succede in altri paesi della cosiddetta vecchia Europa. È evidente che sotto i nostri occhi, in questi anni, si è innescata una rivoluzione nella quale il mondo dell'autotrasporto è stato completamente fagocitato. Le imprese dell'est europeo hanno conquistato spazi sempre più ampi, sia nei servizi internazionali che in quelli interni ai paesi esteri, come consentono le norme sul cabotaggio, norme comunitarie che pongono limiti precisi, non sono consentiti più di 3 trasporti una volta entrati nel paese, ma che un sistema di controlli blando ha permesso a lungo di aggirare con pochi rischi. E anche per spiegare l'invasione delle imprese dell'est sulle strade della vecchia Europa non c'è bisogno di ricorrere ad analisi troppo complicate, forse è fin superfluo chiarirlo. Ad un'azienda, un autista assunto con un contratto in Bulgaria, per esempio, costa molto, ma molto meno rispetto ai livelli retributivi previsti in Italia come in Francia. È la struttura stessa del salario che è profondamente diversa. La paga base è anche 7 volte inferiore, ad aumentarla un po' contribuiscono premi di produzione proporzionalmente elevati, sui quali però non si calcolano i contributi. Praticamente un pagamento a cottimo o quasi. A tutto ciò va aggiunta una fiscalità più morbida e il discorso è chiuso. I costi operativi di un'impresa di autotrasporto che può contare su queste condizioni sono 4-5 volte inferiori a quelli appunto dei paesi della vecchia Europa. Di conseguenza le tariffe applicate sono stracciate rispetto ai concorrenti e così il settore è stravolto in forza una concorrenza di finita sleale e di un fenomeno, quello della delocalizzazione delle aziende. Chiudono dove costa troppo e riaprono nei paesi dove costa meno, usufruendo di lavoratori in distacco internazionale o affittando manodopera. E così si origina l'altro fenomeno collegato, quello del dumping sociale. Come uscirne? Qui sta il dilemma. La vecchia Europa sollecita norme che possano ripristinare in fretta le regole del mercato e nel frattempo i paesi si attrezzano con leggi nazionali come il salario minimo in Francia o in Germania, norme che contrastano con i principi comunitari, ribattono i paesi dell'est, per i quali in buona sostanza il problema non esiste. A Bruxelles la questione entrerà a far parte del pacchetto stradale che dovrebbe essere presentato nei prossimi mesi. Il condizionale è d'obbligo visto che l'avvio del dibattito è stato rinviato già più volte. L'idea è che la strada verso un'intesa sia alquanto tortuosa. Ma le imprese come vivono questa situazione di incertezza? A Barcellona, in occasione di WConnecta, a confronto esperienze, valutazioni e punti di vista. Miguel Angel Martin è il responsabile del settore logistico di una catena della grande distribuzione spagnola. Las reglas que tenemos son muy antiguas, que está pensado para el transporte. Le regole che abbiamo sono molto datate. Si riferiscono a un mercato del trasporto fermo a 30 anni fa. Oggi sono cambiati i mezzi utilizzati, gli standard di sicurezza, la merce trasportata. Ogni paese ha le sue regole e questo è assurdo. Ormai si opera all'interno di un mercato unico, globale. La concorrenza sleale da parte di alcuni paesi dell'est è indubbiamente un problema grave. Queste imprese possono praticare costi più bassi anche perché, come avviene per esempio in Bulgaria, l'autotrasporto ottiene delle sovvenzioni da parte dello Stato. Ci sarebbe bisogno di un salario minimo. È una condizione imprescindibile per arrivare a un mercato libero. A fare la differenza è il servizio, non il prezzo. Che differenziare per il servizio, non per il prezzo. Il salario minimo quindi come strumento per riequilibrare il mercato dell'autotrasporto, ma come sentiamo sempre in Spagna c'è chi manifesta qualche perplessità. Eugenio Manes Orduña è il segretario della Federazione Catalana degli Autotrasportatori. Le imprese spagnole normalmente hanno una dimensione. L'impresa spagnola generalmente è di dimensioni piccole, quelle più grandi costituiscono una minoranza. Sul tema della concorrenza da parte degli operatori stranieri, in Spagna non sono state adottate leggi particolari, tipo il salario minimo, come invece è accaduto in altri paesi della vecchia Europa. Per noi una legislazione del genere sarebbe piuttosto complicata da adottare. perché nel paese esiste una struttura di contratti di lavoro e di costi già differenti tra le varie province spagnole. Per esempio a Barcellona il salario è il più alto e praticamente corrisponde ai livelli fissati da Francia e Germania. Certo, un intervento dell'Europa per rendere omogeneo il mercato è utile e necessario e non dovrebbe riguardare solo i salari e i costi. In Spagna c'è un po' di ripresa. La riforma del servizio sanitario ha influito positivamente, ha pompato risorse alle imprese, che così hanno potuto rinnovare le flotte. Che ha contribuito a insufflare dinero alle imprese e poter rinnovare flotte. Prima dicevamo dei numeri che, al di là della percezione diretta, cristallizzano l'andamento delle dinamiche del mercato dell'autotrasporto in Europa. I dati che seguono sono stati elaborati per conto di URAE, l'Unione dei Costruttori Esteri di Veicoli. Nel 2014 le imprese con sede in Slovacchia, per fare un esempio, hanno svolto in ambito internazionale l'80% dei loro servizi di trasporto, in Polonia e Romania circa il 60%. Giusto per rendere le proporzioni, per le imprese italiane e francesi, i servizi internazionali hanno oscillato tra il 10 e il 15% della loro attività. Ancora, tra il 2007 e il 2015, in Polonia, dove le aziende di autotrasporto sono ormai 160.000, il doppio rispetto alla Francia, l'incremento dei trasporti su strada è stato del 66%, in Italia del 2%. Sempre in Polonia, in 8 anni, le immatricolazioni dei veicoli industriali con peso superiore alle 16 tonnellate sono aumentate del 26%. Nello stesso periodo, in Italia, sono calate del 53%, segno meno anche in Francia, meno 23, e in Germania, meno 9. E a proposito della Germania, Astrid Liesibach è la titolare di un'impresa di autotrasporti con sede a Newdorf. Io penso che ci troviamo in una situazione politica di attesa. Si tratta di capire cosa potrà accadere nei prossimi mesi a partire dalla Brexit, che è stato davvero uno shock per la gente del nostro continente. Direi che in generale l'Europa sta attraversando un momento piuttosto difficile. C'è bisogno di regole comuni per contrastare politiche dei prezzi così differenti tra i vari paesi. È urgente e fondamentale che vengano create condizioni adeguate a favorire una competitività reale nel mondo dei trasporti. Su questo tema la Commissione europea finora ha un po' dormito, adesso deve svegliarsi in fretta. Non so se il salario minimo possa essere considerata la soluzione giusta. Di una cosa però sono sicura, occorrono regole molto severe, altrimenti non le rispetta nessuno. E ora sentiamo chi invece è schierato sull'altro fronte, cioè quello dell'Europa dell'Est, dal quale, è l'accusa, proviene la fonte che inquina il mercato stravolgendo le regole. Attilia Consandri è il responsabile di un'impresa di autotrasporti romena. I'm not agree because the company is like, Non sono d'accordo. Ci sono imprese estere, alcune per esempio sono spagnole, che vengono in Romania e applicano tariffe molto basse. Da noi i salari non sono diversi da quelli che vengono riconosciuti in altri paesi. Semmai sono le tasse ad essere più basse. Per questo ci sono molte aziende dell'Europa dell'Ovest che si trasferiscono in Romania perché i costi sono inferiori. Regole comuni? In Europa ci sono già troppe leggi. Pensiamo per esempio al salario minimo in Francia, dove c'è la legge Macron, o in Germania. Si parla di un mercato dell'autotrasporto non equilibrato, ma attenzione, questo vale anche per gli imprenditori romeni, così come per le imprese degli altri paesi dell'Est Europa. Da parte nostra è complicato ottenere commesse internazionali perché verso di noi continuano a esistere pregiudizi. Sei considerato non affidabile, forse perché in passato qualcuno non si è comportato in maniera seria, non lo so. Alla fine comunque è difficile per le aziende dell'Est Europa lavorare come le aziende dell'Ovest. In un panorama di questo genere, intravedere l'orizzonte è difficile, ma certo qualcosa dovrà accadere e non potrà che passare da Bruxelles. Dicevamo del pacchetto stradale, cioè un insieme di norme e indirizzi ai quali dovranno fare riferimento i paesi comunitari in materia di trasporti su strada. Il testo dovrebbe essere presentato nei prossimi mesi e, come ci dice l'europarlamentare Massimiliano Salini, componente della Commissione Trasporti, le premesse non sono incoraggianti. In questo momento il lavoro su quella partita è tutto da costruire. Siamo all'inizio proprio di una discussione che rimane all'inizio da diversi anni, perché già non ci intendiamo sul concetto di dumping sociale, cioè già non abbiamo un punto di incontro nemmeno sulle definizioni. E poi c'è la realtà. La realtà è fortissimamente invasiva, diciamo, dal punto di vista della dinamica delle trattative politiche, perché oggi chi realmente fa i conti o vuole fare i conti col mondo dell'autotrasporto sa che l'Europa è stata completamente, usiamo un termine brutto, lo mettiamo tra virgolette, però invasa da trasportatori dell'est che arrivano in tutta Europa e lavorano a condizioni, come noto, di retribuzione molto diverse da quelle nostre. Si dovrebbe trovare, si dice sempre, una sorta di equilibrio, così come è stato trovato sul tema dei marittimi, dove si è trovata una armonizzazione con una sorta di retribuzione media europea che ha accontentato un po' da una parte, scontentato un po' dall'altra, ma ha trovato un punto di equilibrio che ha bloccato la discussione. Vediamo. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.